Melomaníacos. Y hoy en nuestro espacio dedicado a la música, Vasco Rossi. Es un cantante y músico italiano, el mayor referente de la música rock en Italia. Rebelde como reflejan sus canciones, Vasco sigue su instinto artístico y funda la primera radio libre de Italia en 1975, Punto Radio. Ogni volta che viene giorno, ogni volta che ritorno, ogni volta che cammino e mi sembra di averti vicino, ogni volta che mi guardo intorno, ogni volta che non me ne accorgo, ogni volta che viene giorno, e ogni volta che mi sveglio, ogni volta che mi sbaglio, ogni volta che sono sicuro e ogni volta che mi sembra solo, ogni volta che mi viene in mente qualche cosa che non c'entra niente, ogni volta. E ogni volta che non sono coerente, ogni volta che qualcuno si preoccupa per me, ogni volta che non c'è, è proprio quando la stavo cercando, ogni volta quando. El estilo vasco se ha forjado ya. La crítica no solo se refiere a su música, sino que también se habla de sus excesos con el alcohol y la defensa de la droga, que fueron muy comentados en aquellos años. Pero Vasco volvería con un disco que alcanzó cotas de himno, Siamo solo noi. En 1982 participa en el Festival de San Remo con su quinto disco, Vado al máximo. Si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose sono solo fesserie. Al año siguiente, en 1983, saldría a la venta uno de sus discos más elogiados a nivel colectivo por su gran imaginativa, Vita Spericolata. Pero este disco no se refiere solo a una canción, puesto que Vasco había salido milagrosamente vivo de dos accidentes automovilísticos. Va bene così le seguiría mostrando la parte más emotiva de Vasco, entre la desilusión y el amor. È passato tanto tempo, vivere è un ricordo senza tempo, vivere è un po' come perdere tempo, vivere e sorridere, vivere. È passato tanto tempo, vivere è un ricordo senza tempo, vivere è un po' come perdere tempo, vivere e sorridere dei guai, così come non hai fatto mai. E poi pensare che domani sarà sempre meglio. Oggi non ho tempo, oggi voglio stare spento. Los siguientes discos se han convertido en esenciales en su discografía. En 2002, Vasco echa la vista atrás para recopilar su primera antología, otro superéxito de ventas en Italia. Su último disco, por el momento, Uomini o Cattivi, supone la consagración en el estrellato de Vasco Rossi en la música rock internacional. Al margen de lo musical, Vasco Rossi es un polifacético creador, empresario y voz protesta de muchas causas. Sin duda, todo un personaje.